trio delle stringhe è nata. È democratico perché per OGM si intende l'effetto placebo da Bicondor. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone, scienza e dintorni su Radio Città Fujiko, a cura di Fabio De Sicò. Sabato 4 luglio 2009 e benvenuti ad un'altra puntata di Caccia al fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Contatti 333 180 94 94 per inviare i vostri sms e cacciafotone at radiocittafujiko.it per inviare le vostre mail. E quest'oggi parleremo di un argomento un po' particolare, un argomento che abbiamo esplorato anche gli anni passati, ma è un argomento che è sempre attuale. Stiamo parlando delle cosiddette cellule staminali. E ne parleremo con la professoressa Maria Pia Abbracchio, professoressa di farmacologia presso l'Università degli Studi di Milano. Buongiorno professoressa. Buongiorno a lei. Professoressa, cominciamo così. All'inizio abbiamo le 100 parole iniziali per introdurre la trasmissione. Le vorrei chiedere in 100 parole di descrivere, se può, che cos'è una cellula staminale. Allora, guardi, una cellula staminale è una cellula indifferenziata, cioè non specializzata, che però può, in determinate condizioni, trasformarsi in cellule altamente specializzate. Tutti i tessuti hanno una riserva di cellule staminali che normalmente sono allo stato quiescente, cioè semplicemente si automantengono dividendosi ogni tanto. Poi in condizioni particolari queste cellule possono intraprendere un processo di differenziamento, cioè di specializzazione, e generare tutti i tipi cellulari specializzati presenti in quel determinato tessuto. Professoressa Abbracchio, all'inizio della puntata, quindi nella prima parte, parleremo fondamentalmente della distinzione fra cellula staminale embrionale e fra cellula staminale adulta. Nella seconda parte invece parleremo di una sua ricerca che è uscita su Brain il 15 giugno 2009. Quindi resti in ascolto, adesso ci andiamo ad ascoltare il primo pezzo musicale e poi torneremo in studio per cominciare davvero con la trasmissione. Benissimo, grazie. Professoressa Bracchi, abbiamo deciso di cominciare la trasmissione parlando di una notizia che è apparsa 2 giorni fa ed è una notizia molto particolare in cui la professoressa Elena Cattaneo, che peraltro lei conosce, la dottoressa Elisabetta Cerbai, la dottoressa Silvia Garvagna hanno praticamente citato in giudizio il nostro governo perché da un bando che era stato indetto nel 2007 è stato tolto la possibilità di fare ricerca sulle cellule staminali embrionali. Ora, il dibattito sulle cellule staminali embrionali e le cellule staminali adulte è un dibattito che va avanti da molto tempo. Qua ci sono discorsi politici, discorsi religiosi, chi considera le cellule staminali embrionali una vita. Cerchiamo comunque di parlare di che cosa sono le cellule staminali embrionali, di che cosa sono le cellule staminali adulte, visto che tutto il dibattito che si è aperto quasi 2 giorni fa è un dibattito che sta rispolverando vecchi sentimenti. Sì, guardi, allora, le cellule staminali embrionali sono di fatto le cellule che generano tutto il nostro organismo, perché sono le cellule dalle quali si formano, proprio per quel processo di differenziamento che già nominavamo prima, tutte le cellule specializzate dei nostri tessuti. Quindi sono cellule che lavorano moltissimo e hanno ovviamente un ruolo primario nella organogenesi, cioè nella formazione di tutti i nostri organi, e sono attivissime durante la vita embriofetale. Poi in realtà molte di queste cellule rallentano la loro attività, ma non scompaiono. Rimane una piccola riserva di queste cellule in tutti i tessuti adulti, e questa, diciamo, è la relativa novità, nel senso che da tanti anni si sapeva dell'esistenza delle staminali embrionali. Più di recente si sa che una piccola quota di queste cellule dotate di totipotenzialità, cioè capaci di generare tutti i tipi cellulari presenti in quel determinato organo, ecco, una piccola quota, una piccola riserva di queste cellule rimane anche nel tessuto adulto, dove normalmente è quiescente, però può essere attivata, può essere reclutata questa piccola quota per generare nuove cellule anche durante la vita adulta, per esempio che vadano a riparare dei danni locali. Ma stiamo parlando di tutti i tipi di tessuti o sono localizzate in particolari punti del nostro corpo? Allora, intanto praticamente quasi tutti i tessuti che sono stati studiati sono dotati di questa quota di cellule staminali adulte. Non sono diffuse a tutto il tessuto, tutt'altro, anzi, per esempio nel cervello, e quindi anticipiamo magari qualcosa sulle staminali cerebrali, visto che poi ne parleremo, certo. Del cervello non stanno dappertutto, ma stanno nelle cosiddette zone neurogeniche adulte, che sono delle piccole zone, in realtà anatomicamente molto piccole, presenti all'interno del cervello e all'interno del midollo spinale. Quindi la quota residenziale di queste cellule è molto piccola in condizioni normali. Ora, l'idea è che, dato che queste cellule sono lì presenti e sono molto simili alle staminali embrionali, quindi sono capaci, se opportunamente stimolate, di generare i tipi cellulari, tutti i tipi cellulari presenti nel cervello adulto, l'idea è di studiarle per vederne la regolazione e verificare se è possibile reclutarle e aumentarne le attività per andare a riparare malattie caratterizzate da perdita di neuroni o di glia, e cioè dei 2 tipi principali di cellule presenti nel sistema nervoso centrale. Senta, lei ha utilizzato un termine, anzi un verbo, stimolare, stimolare la cellula a fare qualcosa, ma in che modo possiamo stimolare la cellula a fare qualcosa? Un bambino, se lo vogliamo stimolare a giocare a pallone, gli dobbiamo dare un pallone, ma qual è il pallone e qual è il bambino che dobbiamo stimolare? Ecco, guardi, questa è una domanda importantissima, e se fossimo in grado di rispondere pienamente a questa domanda saremmo già molto avanti nella ricerca. Diciamo che conosciamo, stiamo studiando i fattori che regolano la capacità di queste cellule di automantenersi all'interno dei tessuti e la capacità di queste cellule poi di far partire questo processo di differenziamento, di specializzazione che genera nuove cellule. cellule funzionali adulte. Abbiamo già individuato, non solo noi ovviamente, ma ci sono molti gruppi al mondo che stanno lavorando sulla regolazione, sulla stimolazione, come diceva lei, sul tipo di stimolo che dobbiamo dare a queste cellule per attivarle, per reclutarle e far sì che generino le cellule di nostro interesse. Si sta facendo moltissimo in questo senso, molti fattori sono stati già individuati, si tratta ora di capire bene il momento giusto in cui bisogna fornire questi fattori. Molti di questi fattori lavorano in realtà in sinergia con altri fattori, per cui non ne basta uno solo, ma molto spesso ne sono richiesti più di un tipo perché la staminale generi o il neurone o la cellula gliale, ed è proprio anche su questa sinergia che è molto importante lavorare. Quindi, come non esiste il gene dei capelli biondi, non esiste il recettore che fa un'operazione che poi fa diventare la cellula staminale embrionale una cellula per esempio epiteliale, una cellula epatica, eccetera eccetera. Diciamo che ci sono dei geni, dei recettori più importanti di altri, ma sarebbe diciamo molto pericoloso in effetti anche da un punto di vista biologico se tutto dipendesse da un unico gene, da un unico recettore. Anzi, quello che si vede studiando il differenziamento di queste cellule è che c'è una sinergia, una concatenazione di attivazione di geni diversi che sono importanti, tutti ugualmente importanti, ma in diverse fasi del differenziamento della cellula staminale. Quindi non solo è importante dare lo stimolo, dare la palla al bambino, come diceva lei prima, ma quello stimolo deve essere molto appropriato nel tempo e nello spazio, proprio perché la cellula staminale ha bisogno di quel determinato stimolo in un certo momento per procedere fino ad un determinato stadio del differenziamento, poi avrà bisogno che quello stimolo scompaia e ne compaiano degli altri. E quindi questa concatenazione, che è perfetta nella generazione della cellula terminalmente differenziata, della cellula specializzata, è una concatenazione temporale e spaziale che i ricercatori stanno cercando di dissezionare, di studiare in dettaglio, in modo poi da poterla amplificare nel miglior modo possibile, pur mantenendone ovviamente il controllo. Senta, quindi, come si dice, la cellula staminale embrionale è più promettente dell'adulto, oppure anche l'adulta ha più o meno le stesse caratteristiche di generare tessuti come quella embrionale? Guardi, in realtà la cellula staminale adulta deriva dalla cellula embrionale, cioè è quello che rimane all'interno del tessuto adulto di quelle cellule che all'inizio hanno formato tutto il tessuto stesso. Quindi sono cellule molto molto simili dal punto di vista della loro dinamica di funzionamento e della espressione genica, visto che abbiamo parlato di geni. Poi ci sono delle differenze, perché questo è stato visto molto chiaramente: ci sono per esempio dei geni o dei recettori che vengono espressi soltanto nella cellula embrionale, e ce ne sono degli altri che vengono espressi solo nella cellula staminale adulta, come pure ci sono geni che sono espressi da tutte e due. Quindi non sono identiche, però sono molto simili e ci sono molte somiglianze anche nel processo differenziativo che loro intraprendono quando devono generare la cellula funzionale. Professoressa Bracchi, abbiamo fatto un po' una distinzione fra embrionale e adulto, adesso ci andiamo ad ascoltare un secondo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi parleremo della sua ricerca uscita il 15 giugno 2009 sulla rivista Brain. Benissimo, la ringrazio. Dottoressa Bracchio, quindi adesso parliamo della ricerca che è stata pubblicata su Brain, l'abbiamo già detto tre volte, qualche giorno fa. Sì. Allora, nel titolo si individua un recettore che è il GPR17 come un recettore fondamentale per identificare e curare i traumi spinali. Ora, io non voglio anticipare niente, ci introduca lei la ricerca e poi andremo a esplorarla meglio. Va bene. Innanzitutto ci tengo a dire che questo studio non sarebbe stato possibile senza la sinergia di vari gruppi di ricerca, quindi non soltanto il mio laboratorio all'Università degli Studi di Milano, il primo autore dello studio è una ricercatrice del mio gruppo, la dottoressa Stefania Ceruti, ma hanno partecipato anche il CNR di Milano e il Centro Neurolesi Bonino Puleio di Messina, che è diretto dal professor Placido Bramanti e in collaborazione con il professor Cuzzo Crea, sempre della stessa Università di Messina. Non sarebbe stato possibile perché questo centro ci ha fornito la loro lunga esperienza nei traumi midollari e quindi da anni loro lavorano su modelli sperimentali di trauma e grazie a questi modelli noi abbiamo potuto individuare il ruolo di questo nuovo recettore GPR17, che peraltro ne avevamo già individuato come un bersaglio estremamente interessante anche per la riparazione del danno cerebrale da ischemia. Quindi questo recettore funziona come un sensore di danno all'interno del sistema nervoso centrale. Quando c'è un danno, sia esso di tipo ischemico, come succede nell'ictus, nello stroke, sia esso di tipo traumatico, come può succedere nei traumi meccanici da incidente stradale e come può appunto succedere nel trauma spinale, ecco, questo recettore si attiva in conseguenza del danno e funziona da segnale di allerta per far partire meccanismi di difesa e di riparazione. Quali sono questi meccanismi di difesa e riparazione? Guardi, allora, un primo meccanismo importante è quello di richiamare alla zona della lesione un particolare tipo di cellule gliali che si chiamano microglia, che servono a eliminare le cellule morte immediatamente danneggiate dalla lesione stessa, cioè queste cellule microgliali fanno da spazzini per cui entrano all'interno della lesione, eliminano le cellule morte in modo da preparare la zona della lesione al successivo fenomeno processo di riparazione. Quindi questa è una prima cosa che il recettore fa, perché noi abbiamo visto che questo recettore viene indotto proprio specificatamente, compare sulla membrana delle cellule microgliali che migrano verso il tessuto e penetrano all'interno della lesione. In una seconda fase lo stesso recettore viene attivato sulle cellule staminali che sono presenti all'interno del tessuto. Quindi il recettore è già presente allo stato quiescente su queste cellule, in condizioni di danno viene attivato, queste cellule staminali iniziano a proliferare e ad intraprendere un percorso differenziativo. E questo l'abbiamo visto sia in questo lavoro di Brain per quanto riguarda il danno spinale, ma avevamo visto esattamente cose simili nel modello di ischemia cerebrale, cioè nel modello di ictus, e quindi l'idea è che questo recettore sia cruciale per far partire l'attivazione della cellula staminale adulta. Senta, quindi possiamo dire che quando si verifica un ictus è il GPR17 che non ha dato gli stimoli giusti. Guardi, non so se proprio possiamo dirlo in questo modo. Diciamo che c'è consapevolezza che ci sia comunque sempre una ripresa, un recupero del tessuto, ma che questa ripresa, questo recupero non riescono ad essere interamente funzionali. Cioè, quindi c'è una riparazione che si verifica normalmente anche nell'uomo dopo l'ictus, dopo il trauma spinale, c'è un tentativo di riparazione e c'è anche una parziale riparazione, però questa riparazione è insufficiente a far riparare danni molto grossi, come quelli che si verificano appunto durante un ictus grave, anche perché, o durante un trauma spinale molto importante. Anche perché nella ricerca è chiarito bene che il recettore si attiva dopo 2 settimane. Dunque, allora, in realtà è quello che stiamo studiando adesso, di guardarne l'attivazione a tempi molto lunghi, perché questo ci consente anche di avere quella che gli esperti chiamano un'ampia finestra temporale di intervento, nel senso che, come lei saprà, in tutti questi traumi acuti è molto difficile intervenire bene nella fase acuta del danno. Chiaramente si cerca di intervenire anche in questa fase, però non è semplicissimo farlo. Dove invece è più facile, teoricamente sarà più facile intervenire, è nella fase successiva all'insulto, che si estende in quella fase di rimodellamento e di riparazione, che si estende, che inizia pochi giorni dopo e che si estende per settimane, ma addirittura per mesi. Ecco, in questa fase c'è una finestra terapeutica quindi molto ampia, nella quale noi vorremmo, desidereremmo intervenire, cercando di favorire al massimo questa capacità di autoriparazione del cervello e del midollo spinale, attraverso un'appropriata stimolazione del recettore GPR17. Stiamo parlando di farmaci fatti opportunamente per stimolare questo recettore, giusto? Esatto, esatto. Benissimo. Allora, cerchiamo di capire un attimo in che modo poi agisce nel proseguo della malattia. Una volta che si è attivato, una volta che ha aiutato alla rigenerazione dei tessuti, poi questo recettore esattamente cosa fa? Ma guardi, quello che fa dopo ancora non lo sappiamo, nel senso presumiamo che ritorni allo stato quiescente e quindi silente in condizioni normali, nel senso che in condizioni normali riteniamo che questo recettore svolga delle funzioni trofiche di mantenimento delle cellule staminali sulle quali è presente. In condizioni invece di attivazione non ha più soltanto questa azione trofica, ma permette a queste cellule di iniziare un percorso differenziativo. In particolare, dove l'abbiamo visto essere molto importante, è nella generazione di un tipo particolare di glia che si chiama oligodendroglia, e che avvolge i prolungamenti nervosi costituendo la cosiddetta guaina mielinica. Questa guaina è una sorta proprio di manicotto che avvolge i nervi, che avvolge i prolungamenti nervosi e che permette la trasmissione degli impulsi nervosi. In tutte le malattie neurodegenerative, sia di tipo acuto che cronico, ci sono dei difetti, dei disturbi di questa guaina. Addirittura la guaina può andare incontro a un processo di distruzione totale, e questo impedisce agli impulsi nervosi di poter essere trasmessi da un neurone all'altro. Quindi fare nuove cellule oligodendrogliali attraverso questo recettore, che andranno ad avvolgere i processi nervosi, permette di ripristinare la trasmissione nervosa e quindi di ripristinare la capacità dei neuroni di comunicare fra di loro. Quindi, se lei potesse dare una scala di intervento sull'ictus, se veramente la ricerca si rivelerà corretta, sarebbe quella di cercare di far fare alla GPR17 prima di quello che farebbe il suo lavoro, e poi tramite dei farmaci opportunamente fatti cercare di tenere attivo questo recettore e cercare di limitare i danni, giusto? Esattamente, anche perché, ecco, una cosa importantissima che è stata vista, come dicevo prima, le cellule staminali lavorano nel nostro cervello, nel nostro midollo spinale per riparare i danni, ma purtroppo non riescono a fare un lavoro ben fatto, o perlomeno non riescono a portarlo a compimento, perché ci sono molti fattori nel tessuto stesso che inibiscono l'attività della cellula staminale. Succede che in tutti questi eventi c'è sempre infiammazione locale, e l'infiammazione è molto deleteria per le cellule staminali, perché di fatto le uccide o le inibisce. Quindi la nostra idea è che una terapia combinata che faciliti l'attività di GPR17 o di altri geni molto importanti nel funzionamento delle staminali, insieme con fattori antinfiammatori o che combattono questa inibizione locale, ecco, questa terapia potrebbe essere di successo, perché permetterebbe di valorizzare al meglio, amplificare al meglio le attività svolte dalle cellule staminali, permettendo loro di portare a compimento quanto hanno iniziato. Senta, le voglio fare una domanda personale. Esattamente che cos'è che l'ha stupita di più di questa ricerca? Prima di tutto, quando è cominciata questa ricerca? Guardi, questa ricerca è iniziata 8 anni fa, perché noi abbiamo inizialmente, non sapevamo nulla di questo recettore, ci siamo interessati a questo recettore perché assomiglia ad una serie di altri recettori che il nostro laboratorio studia da diversi anni, però non sapevamo nulla assolutamente dei ruoli fisiopatologici di questo recettore. L'abbiamo clonato, studiato, caratterizzato, e la più grande sorpresa che abbiamo avuto, che è stata di grandissima importanza per indirizzare i nostri studi, è quando siamo andati a vedere nel cervello dove stava. Utilizzando delle tecniche normalmente disponibili in laboratorio che permettono di evidenziare la presenza di un specifico gene all'interno delle cellule, ci siamo accorti con nostra grande sorpresa che questo recettore era presente sui neuroni adulti maturi, ma era anche presente sulle cellule staminali adulte presenti nel tessuto. Questa è stata la nostra più grande sorpresa, confermata poi anche da studi condotti da un altro gruppo tedesco, che ha individuato lo stesso recettore sulle cellule staminali adulte umane, quindi questo ci ha confortato ancora di più. E a quel punto la nostra ricerca ha subito una svolta e abbiamo iniziato a studiare il ruolo di questo recettore nella regolazione e nel funzionamento delle staminali adulte. È curioso che per noi giornalisti è molto facile, andiamo sulle riviste scientifiche, scarichiamo il paper, ce lo leggiamo, sì. Sono 13 paginette, in realtà queste sì. 13 paginette sono costate 8 anni di lavoro, e questo dimostra anche che la ricerca deve essere finanziata, perché altrimenti per 8 anni non si può andare avanti. Guardi, assolutamente deve essere finanziata, devono essere aiutati i giovani che lavorano con grande entusiasmo e dedizione in laboratorio. Io vedo i miei ragazzi, lavorano con una passione, un entusiasmo che certamente non è dovuto né allo stipendio, al magro stipendio che ricevono, né alla considerazione che spesso queste persone, queste ricerche hanno in ambito accademico, in ambito nazionale. Ecco, una cosa importante da dire è che il nostro paese dovrebbe puntare di più sulla ricerca. Si deve capire che senza ricerca non si va da nessuna parte, questo vale per tutti i campi ovviamente, non solo per quello biomedico. Un paese senza ricerca è un paese senza futuro, e noi dobbiamo costruire un nostro futuro permettendo a questi giovani certamente di andare all'estero e di specializzarsi, ma anche di poter lavorare bene qua in Italia. Professoressa, io la ringrazio anche per le parole finali che ha voluto dedicare alla ricerca italiana, che è messa abbastanza male, diciamo. Io saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Cacciafotone e gli ascoltatori di Radio Città Fucico. Io vi do appuntamento a sabato prossimo, stessa radio, stesso fotone, e come al solito l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie ancora, professoressa. Grazie mille a lei, arrivederci.